Ciao a tutti, vombati e vombate. Quanto tempo che non ci si sente, mi rendo conto. Forse qualcuno mi dava anche per morto. Comunque, sono ancora vivo. Per la gioia magari di qualcuno, e chi lo sa, per il dispiacere di altri. Però, sono ancora vivo. Adesso tornerò più forte che mai, se riesco, e niente. Benvenuti in questa nuova puntata di Orizzonti di Cinema. Allora, senza perderci troppo in chiacchiere e quant'altro, questa sera ho deciso di... Allora, dato che tra un paio di giorni è l'anniversario di morte di Nuti, nel senso di Francesco Nuti, nel senso che è un anno che è morto Francesco Nuti, ho deciso, dato che ho fatto una monografia su Nuti tempo fa, che però è venuta, per quanto mi riguarda, una merda, perché per me è venuta veramente male, è venuto un polpettone. Poi se vi è piaciuta vi ringrazio, però io sinceramente ci tenevo a fare quella puntata, ci tenevo molto, però non mi sono... preparato abbastanza, l'ho fatta proprio boom, sono andato e senza seguire un filo eccetera, non che in altre puntate, però è venuta fare una puntata di quel tipo che volevo proprio dedicare a Nuti, a tutti i suoi film eccetera, cioè se non ti prepari un minimo, insomma, era un po' già scritto che venisse una merda, e infatti è venuta un po' una merda, ecco, perché l'ho fatta proprio così. Comunque, ho detto, quindi magari vi romperò il cazzo con Nuti, non me ne frega nulla, però io ci tengo a valorizzare questo che è stato un grande attore, perché ora ho visto faranno un'iniziativa in Santa Croce su Nuti per la sua morte, trasmetteranno, strano, perché quando è morto l'anno scorso non hanno trasmesso un cazzo, trasmetteranno fortunatamente Io chiare l'oscuro e Casablanca il 13 sera, però in generale io voglio portare il più possibile Nuti su questa radio e parlarvene il più possibile, perché mi sono reso conto col passare del tempo, soprattutto da quella puntata lì che ho fatto, quella monografia sbagliata, che Nuti è diventato forse veramente il mio attore preferito, perché attore preferito non vuol dire il miglior attore della storia del cinema, ovviamente. È l'attore che forse mi è più nel cuore in questo momento. Mi sono reso conto di quanto i suoi film, il suo modo di recitare, il suo modo di fare in generale, mi sia entrato proprio dentro, nelle vene, nel sangue, e insomma, e di quanto secondo me si è perso, e di quanto forse, probabilmente, in realtà ci siamo persi anche grandi cose che forse lui poteva fare di più di quello che ha fatto, perché probabilmente secondo me è un attore così versatile, perché Nuti secondo me era veramente un grande talento, il viso, le movenze, il modo di recitare eccetera, secondo me poteva essere predisposto anche a lavorare con grandi autori in film anche proprio più drammatici, più secondo me ci sarebbe stato perfettamente, anche se avesse collaborato con grandi registi eccetera, sarebbe venuto fuori qualcosa di interessante, però sicuramente, cioè questo è vero, era un po' egocentrico, ha voluto poi dirigere, prepararsi completamente lui i suoi film a 360 gradi, fare anche il regista eccetera, e va bene comunque lo stesso. E comunque il film di cui voglio parlare stasera, voglio parlare di un film di Nuti a sto giro, perché mi sembra molto meglio, è il film probabilmente il mio preferito di Nuti. Non è migliore, il peggiore, chi cazzo se ne frega, però è quello che io ho più nel cuore, che ho visto più volte, nonostante mi renda conto dei suoi limiti, delle sue, però è quello di cui sinceramente mi sento a più agio e di cui parlo più volentieri stasera. Il film è Stregati del 1986, appunto diretto ed interpretato da Francesco Nuti. Film con Francesco Nuti e Ornella Muti, la coprotagonista del film. Questa storia d'amore tra questi due personaggi, appunto lui un... lui lavora in radio, interpreta questo personaggio che si chiama Lorenzo, che in realtà anche un po' nulla facente, è uno che, diciamo, gli piace andare a giro con gli amici, questa banda di amici, fa molto amici miei sta cosa, mi ha ricordato dall'altro, questi amici con cui va in giro a far di mezza età, tra l'altro c'è anche Novello Novelli, con cui fa cazzate nel vero senso della parola, cioè lui addirittura... insomma, porta ragazze in casa sua per farci sesso e poi le fa trombare dagli amici a loro insaputa, al buio. Cioè, proprio, è anche un personaggio veramente negativo il Lorenzo di Nuti di questo film. E semplicemente poi il film si evolve con il fatto che lui, una notte, fregando il taxi di uno di questi suoi amici, carica su questa ragazza, questa Anna si chiama, interpretata da Ornella Muti, che poi è diventata la moglie dopo questo film. Aveva già lavorato con lei l'anno prima in Tutta colpa del paradiso, che magari poi vi parlerò anche di quello molto volentieri. E però questo è il film con cui, a quanto ho capito, è scoccato, diciamo, l'amore tra i due. E niente, lui carica la Muti su questo taxi e semplicemente i due hanno questa storia, diciamo, molto notturna, molto un po' mordi e fuggi, diciamo, molto controversa, che è un po', diciamo, anche destinata a finire di base, nel senso che è una storia tra due, innanzitutto anche due anime solitarie, un po', secondo me, questa cosa interessante, ma anche tra due personaggi insomma, che non, come dire, un po' estranei a quello che sta accadendo, perché il personaggio del Nuti in realtà è uno, appunto, che, ripeto, gli garba a farlo scemo con tutte e che, insomma, non sembra neanche portato per una relazione seria, e lei è una che si deve sposare, quindi deve partire e deve andare a sposarsi. Tutto questo ambientato in questa Genova piovosa, notturna, molto figa, devo dire. E appunto partiamo così con le cose che mi piacciono. Magari farò qualche piccolo spoiler, ragazzi, ma il film è l'86, poi non è che... Comunque, cosa mi piace di questo film? Allora, innanzitutto mi piace esteticamente il gusto estetico dei Nuti di questo film. Per quanto coi suoi limiti, per quanto... la regia sia quello che sia, perché questo film comunque i suoi momentini anche a livello tecnico secondo me ce li ha, magari non capirò un cazzo, però cioè, fa il suo la regia, nel senso Nuti non era un regista, appunto, ripeto, ecco perché dico, se si faceva, a parte se sperimentava con altri grandi registi eccetera, però se anche si faceva dirigere questi film magari con la mano, con l'aiuto di qualcuno, forse poteva venire qualcosa di migliore, perché qui secondo me c'è una bella sensibilità artistica, questa Genova notturna, questa pioggia, appunto, incessante, questa, no, questa cosa della radio, no, che lui di notte un po' un animale notturno, no, che va alla radio e racconta la sua vita in modo diciamo metaforico, un po' poetico quasi, no? Questi discorsi molto strambi che fa la radio sono molto, secondo me, interessanti, molto belli, e in generale c'ha, secondo me, un gusto estetico questo film notevole, soprattutto aiutato da una colonna sonora che, secondo me, devo dire, io la colonna sonora di questo film sono veramente innamorato, perché è composta dal fratello Giovanni Nuti, che è stato, ha creato questa canzone che si chiama Rose, che mi pare poi l'abbia anche cantata Francesco Nuti successivamente, mi pare, se non mi sbaglio, ed è un pezzo, secondo me, veramente magico, che si abbina perfettamente con il film, con le atmosfere del film, si sente di continuo durante il film, ma per me non è assolutamente un problema, perché è veramente molto bella, per quanto mi riguarda, molto malinconica e rende perfettamente l'apporto tra i due personaggi. È un film in realtà più drammatico e malinconico di Nuti, nonostante, cioè, le parti comiche sono rilegate più che altro al rapporto che c'è tra lui e i suoi amici, no? I suoi compagni di merenda, molto zozzi anche. Però poi in realtà, se guardiamo la storia d'amore tra lui e la Muti, e in generale il film ha atmosfere molto malinconiche. Atmosfere molto malinconiche che mantiene fino a quasi la fine, perché secondo me il problema di questo film è il finale. Poi parlo un po', vabbè, parlo prima del finale, dai, senso, così mi levo questo sassolino dalla scarpa, diciamo. Il finale, secondo me, è il vero problema di questo film, nel senso che sono due personaggi negativi, era una storia malinconica di suo, non aveva senso farla finire bene, per quanto mi riguarda. C'erano due personaggi che secondo me sarebbe stato giusto si separassero e che la storia d'amore fosse appunto una storia d'amore impossibile, diciamo, molto fiabesca, che loro vivono così un attimo. E poi basta, perché la scena del treno dove la Muti se ne va è secondo me molto figa, molto d'impatto, e per quanto mi riguarda il film poteva finire in quel modo. Poi, vabbè, c'è una scena dove si vede Nuti che va in radio un po' triste, poi si riconsola con i suoi amici e quello ci sta. Però perché poi alla fine rivede lei e parte questa voce narrante: ah, te, io mi ricordo di te, come no, mi ricordo del periodo che passavamo insieme. Nuti è uno che non ha problemi a far finire i film di merda e lo amo anche per questo, perché c'ha comunque una malinconia di base che è molto interessante e anche molto, molto sua, molto proprio originale. Cioè, perché questo film ha questo cazzo di lieto fine, perché comunque è un lieto fine, cioè se loro si rincontrano è comunque un lieto fine per quanto mi riguarda. Poi, volendo o non volendo, io l'ho trovato forzatissimo, perché proprio cozza con quello che è anche un po' il senso del film, cioè una storia o un rapporto tra due personaggi negativi, secondo me, cioè due personaggi che non dovevano, secondo me, rincontrarsi, cioè dovevano abbandonarsi ai loro destini e basta. Boh, cioè doveva essere, secondo me, il bello è che è proprio una cosa che si vede temporanea che loro stanno vivendo. E invece, vabbè. Comunque, perché è un po' fuori dagli schemi, un amore un po' fuori dagli schemi, invece no, si rincontrano e un po' vissero felici e contenti. Io così l'ho interpretato comunque, anche se si vedono e basta alla fine, però ti fa presagire quello, in ogni caso. E mi è sempre stata questa cosa, ragazzi. Questo non toglie che comunque io il film, al di là poi di altri limiti che può avere, magari a volte il ritmo è un po' frammentato, sembra che manchino dei pezzi, o sì, a volte magari c'è un po' troppo la musica in certi stacchi di montaggio, probabile. E ci si risente tra un po'. Un secondo. Quindi, dicevamo, bombati e bombate. Il film ha sicuramente i suoi limiti. Stavo parlando di questo, sì. Volte appunto il montaggio, magari qualche dialogo un po' così, per quanto a me piacciono i dialoghi di questo film, sono molto artificiosi, cinematografici, ma mi piacciono per quello, perché comunque è sempre la storia d'amore cinematografica, nel senso. Quindi sono molto. Però sono dei dialoghi, si vede, molto ricercati, molto. Nutri ce l'aveva queste cose qua. Queste cose di dire faccio un po' sto cazzo, no? Mi sento un po' sto cazzo. Però a me piace anche per questo, sinceramente, perché comunque, secondo me, in Stregati è stato molto bravo perché riesce a trasformarsi in un personaggio, ripeto, negativo in realtà, molto squallido di base, perché anche infatti la scena che mi è piaciuta molto del fratello di questa 18enne con cui lui ha avuto un rapporto così mordi e fuggi, e insomma è bello perché poi lo pestano di santa ragione, e lì oltre ad esserci poi questa fase, diciamo, dove appunto l'Ornella Muti vede, capisce chi è realmente lui, poi ovviamente se ne innamora comunque lo stesso, o forse no. Cioè, è bello perché è una storia che non si capisce mai dove vuole andare a parare, se è solo un attimo, una sensazione, no? Ripeto, a parte il finale un po' così, però quella scena in cui lo menano mi è piaciuta, tra l'altro mi è piaciuto insomma il fatto che lui sia un personaggio negativo in questo film, e secondo me lo rende molto bene Nuti, il personaggio di Lorenzo, perché ha questo sguardo appunto che secondo me è perfetto per il film, sembra anche proprio. È anche un po' da maniaco sessuale in alcuni punti, quasi si trasforma, ed è secondo me interessante. Un po' anche da seduttore, nel senso vero della parola, riesce a, e poi ovviamente da anche insomma a farti ridere. Però qui riesce comunque a dare un'interpretazione più seriosa e mi è piaciuto molto. È bello insomma il momento in cui si incontra con lei, no? Per la prima volta, e che gli dice: io c'avevo voglia di rapirti. Mi è venuta voglia di strapparti qualche cosa, un pezzo di amici, un bottone quando t'ho visto, no? Ovviamente adesso un dialogo così al cinema, col cazzo che lo farebbero, però comunque diciamo proprio anche questo modo di fare qui lui lo riesce a rendere molto bene nel film. E anche la Muti secondo me è stata molto brava, abbastanza brava, cioè è stata molto brava per me, nonostante lei non sia sempre un'attrice, per quanto mi riguarda, eccezionale. A me piace anche come recita, al di là della bellezza, ragazzi, come ve lo sto manco a dire, ovviamente, però mi piace anche come recita, per quanto mi riguarda. In questo film mi è piaciuto il suo personaggio, perché anche lei appunto è un personaggio in realtà negativo, sofferente, che si vede comunque in un paio di scene, ci soffre anche per quello che sta facendo, però comunque è innamorata, cioè c'ha comunque questa tresca con questo Lorenzo, appunto. E tutto, secondo me, condito da delle musiche e uno stile, diciamo, visivo, per quanto mi riguarda, molto interessante. E insomma, in generale è un film, secondo me, che funziona molto bene, per quanto mi riguarda, perché è una bella storia, delle belle interpretazioni. A me in generale piacciono questi film dove ci sono questi rapporti tra i personaggi che sono un po', diciamo, sempre un po' ambigui, no? Che non si capiscono fino in fondo, e un po' magici, diciamo. E ripeto, in questo film, però, essendo due personaggi negativi, secondo me era meglio se finisse negativamente, e soprattutto con quella scena del treno era una buona chiusura. Però ho voluto fare il lieto fine. Poi ripeto, le musiche in realtà sono tutte veramente, sono belle, insomma, in generale. In realtà ce ne sono, cioè c'è Rose, poi c'è un'altra, My Soul, non mi ricordo come si chiama, ora mi sfugge, però in generale, diciamo, funziona proprio la colonna sonora, e niente, anche Novello Novelli è stato bravo in questo personaggio, perché lui c'è un po' in tutti i film di Nuti, ma questo è appunto nella prima scena, no, dove lui fa sesso con la ragazzina, secondo me è anche abbastanza pesante come scena, no? E lui ti fa capire anche un po' il grezzume, no, di questi personaggi, questo modo di fare proprio, di merda che c'hanno, da maniaci, da schifosi, insomma, un po', no? E quindi mi è piaciuto, insomma. E in generale, ripeto, io sinceramente l'ho apprezzato molto, questo Stregati, con i suoi limiti, col suo finale un po' così, però per quanto mi riguarda, Nuti fino a un certo, cioè con diversi film funziona come regista, come ideatore di film. E questo secondo me è un film comunque, è un film che comunque ho nel cuore per quanto mi riguarda. Quindi volevo comunque parlarne un po', parlare un po' di questo Nuti, del grande Nuti, e insomma anche appunto sempre valorizzarlo sempre di più. Ripeto, magari riparlerò di lui in questi giorni, e ripetendo che non so quando sentirete comunque questa puntata. E poi in generale, insomma, mi raccomando, il 12 sera c'è Io chiaro all'oscuro e Casablanca in televisione. Se riuscite, guardateveli, faranno anche un'iniziativa a Santa Croce. E in generale non sottovalutate questo artista, secondo me, completo, che è stato Francesco Nuti, perché secondo me aveva tanto potenziale, e per quanto mi riguarda è stato comunque un grande della nostra comicità in generale, ma anche proprio come idee, come soggetto, come sensibilità artistica, per quanto mi riguarda. Ma avremo anche modo, appunto, ripeto, di riparlarne sempre volentieri. E proprio mi dispiace come comunque in generale, dopo l'incidente che ha avuto, dopo non tanto dopo Occhio Pinocchio, perché poi ha fatto il singolo 15 palle, che comunque è un po' un cult per le nuove generazioni di Nuti, nel senso che è comunque un film che hanno trasmesso un sacco di volte in televisione, è stato un successo, per carità. Però in generale, poi dopo l'incidente, dopo che diventava un vegetale, l'hanno proprio buttato nel cesso. Secondo me hanno colto anche la palla a balzo molti, che secondo me ce l'avevano proprio sui coglioni, per quanto mi riguarda. E questo, sinceramente, è una parentesi molto triste, insomma, per quanto mi riguarda, del panorama artistico cinematografico, perché sinceramente mi è dispiaciuto molto per lui, per come è morto, per quello che è successo. Mi è dispiaciuto molto, devo dire. Quindi, questa è la puntata. Vi saluto di nuovo, bombate e bombate. Speriamo di sentirci di più adesso. Meglio, io lo spero, perché voglio registrare. Poi se vi fa cagare la mia trasmissione e non volete sentirmi, vaffanculo, però comunque io continuo. E niente, vi saluto.